attento Marco, ci sei in ascolto? Ciao Luca. Luca, tu sei? Mi ascolto. Sì, ti ascolto, sì. Santiago 9. Santiago 8, là, no, no, Santiago 8, comunque già ti ascolto. Ho detto, c'è questo rumore, no? No, forse il coso qua, la ventola, che ne so, la ventola sarà, o l'alimentatore che mi ha dato, perché sto usando l'alimentatore che ha un po' di alternata. Sì, adesso è più basso, adesso sì. L'hai costruita tu la tenda? No, vado qua. Ma sai come ho fatto io con l'antenna costruita là, con un giubbetto di vino e con una canna da pesca ho comprato da 7 metri lunga e poi mi hanno rompesso perché l'ho dovuto togliere la punta, l'ho dovuto togliere perché non passava il filo. E ci ho messo un altro pezzo che ho buscato, me l'ha dato un amico, Giulio, il meccanico, me l'ha dato. Un pezzo finale, per Giulio il pescatore e dunque ne ha tante di queste cose. 16 euro la Decathlon, la canna da pesca. Ma dai che una pesceria vedi, o Luca, è una pesceria a farla. Qualcuno si vanta che lui faceva antenne e palle varie. Le ha copiate dal computer. Tu guarda, lì al computer non puoi sbagliare perché ti dice tutto, tutto distintamente. Sei uscito nell'ultima parte del questionario, sei uscito in radio. Adesso sì, anche se ti ascolto con la radio un po', ma comunque già ti ascolto. Ma sei meglio la radio adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E così è più forte, così va meglio. Sto guardando un video su YouTube. Vediamo un po'. Su YouTube l'ho visto io anche, sì. Non l'ho fatta scrivere sulla tastiera, tu scrivi, aspetta com'era. Costruzione, antenna, Game Master, spiegazione, aggiungi quella parola anche, spiegazione. E così vedrai che ti appare proprio quello che ti spiega come si fa l'antenna e anzi la stava costruendo anche, capito? Apri il computer e vedrai cosa che tu mi dirai, cazzo, è tutto qui, sì. E io ho perso il vivo, che sia metà in coso, in cavo coassiale, e mi dici 48, mi va bene lo stesso, io l'avevo usato H155 perché avevo quello, e la metà con un filo elettrico normalissimo, ho un nuovo filo, per cui va benissimo, guarda. Ti dice tutto, tutte le misure, tutto ti dice. Trovato là Luca. Guardalo con attenzione, più volte e poi lo sai a memoria, guarda. E beh Luca, come ti sembra? Luca, ci sei? Sì, sì. Non è facile da fare. È facile Luca, è facilissima. Guarda che io ho mandato il progettino, ho fatto la fotografia, allora ho mandato il progettino a Franco, il marito in ombra, e se l'ha costruita lui, se l'ha messa fuori lì, dalla finestra, lui abita in basso, lui in basso, comunque non è all'ultimo piano, e se l'ha messa praticamente fiancheggiando il filo da stella del palazzo, che devo immaginare, in facciata, come ha fatto cosa? L'altalino, l'altalino ha messo l'antenna proprio. Ebbene, arriva benissimo, sai cosa volevo dire benissimo? Sto dicendo, la canna da pesca, 7 metri, da Decathlon, però l'ultimo pezzo bisogna toglierlo e metterne uno, perché se no il filo non ci passa, perché l'appunto è troppo sottile. Io ho buscato l'ultimo pezzo, l'ho inserito, l'ho innestato e va bene. Avete problemi, perché la bobina è di 3,5 metri di filo, arrivare al centro dell'antenna, mi sembra che in tutto ho preso 7 metri, 8 metri, una cosa del genere, comunque copre 8 metri di massa, sai, 19 spire dalla bobina, in questo di tubo anche da 63 mm, quei tubi di plastica che servono per gli idraulici, che poi ce l'ho anch'io, perché il tubo pulito lo posso fare io, non ci sono problemi, lo fa la bobina. E poi tutto il resto è camera pesca, non ce l'ho problema. All'interno ci metti dalla camera pesca, in questo tubo ci metti anche un bastone di legno, che lo prendo anche già a città mercato lì, un bastone rotondo, robusto, e ti posso garantire, né il vento gli fa niente, nulla, sai, non di nulla. Io l'ho tolto la manta, va, perché faceva un casino del diavolo la notte quando soffiava il vento, i radiali, facevano un fischio tremendo. Allora l'ho tolta, mi dava fastidio la notte. Ce l'ho sempre lì, non è che non ce l'ho, l'antenna ce l'ho sempre, però non lo sto più usando. E ho fatto quella, e nonostante che è in basso, proprio in basso rispetto a prima, perché prima era 6 metri più in alta era la mantova. Quest'estate ho fatto anche dei diversi direx sia in Italia che all'estero, per cui va benissimo, ma con Luca. Ma quelli si possono meno da una radio vecchia, da un baracchino vecchio, da un lineare vecchio, non ho problemi, quelli si possono procurare anche senza comprarli. Capito? Comunque costa 1,50 euro c'è da fare. Si chiama pieno da pannello 239. E ti dico di più, lì pensa che l'antenna io nel terrazzo a distanza di nemmeno 2 metri c'è, cioè l'antenna della TV non le fa niente, ed è addirittura come altezza più alta l'antenna della TV che l'antenna del baracchino, per dirti, no? Cosa che dovrebbe essere contrario, dovrebbe essere molto più alta dell'antenna TV, non gli va di nulla, sai cosa vuol dire nulla, nessun tipo hai, niente di niente. Sì, rende benissimo, rende quanto avanti ma tu, guarda, non ci sono dubbi, tu la metti alla stessa altezza, nella stessa posizione, e ti posso garantire che rende quanto avanti ma tu, va benissimo. Adesso non va bene il mio segnale, perché ripeto, io ce l'ho bassa, perché se la metto dove c'è la mantova tubo, ti posso garantire che arrivi benissimo lì, è dappertutto, non solo lì. Vai tranquillo, e poi non spendi niente, cosa vuoi? Comunque 28 metri di filo, RD-148, oppure puoi comprare l'H-155 se vuoi spendere qualcosina in più, che è ancora migliore, compri l'H-155 ed è ancora superiore. Poi ti serve, la parte ti serve, un metro, più o meno un metro, basta comprarle o procurarle, di RG-213, oppure H-1000, insomma un cavo rosso, per fare il condensatore che ci va su in alto, che è 9 cm, una cosa del genere, e l'altro di sotto mi sembra che sia 60 cm, 55 l'ho detto, dai, non so, lì serve al centro, c'è cioè quella specie di cosa, diciamo, di cavo, quello lì mi sembra che sia, ricordo bene, 56 cm, comunque le misure te le dà tutte nel computer. Se non ti va bene quello progetto, puoi fare la ricerca e tu anche altre cose, scrivi solamente confusione da scrivere spiegazione. E ci sono altri siti, tipo quello di Francesco Luna Rossa, che Francesco Luna Rossa è un tipo che ha incominciato in Italia di fare e rivende anche queste antenne. Infatti qualcuno ha copiato, proprio da quello lì ha copiato, qui qualcuno di Sassari. Comunque, va bene così. Capito? C'è che ci sono tante possibilità, Luca, non è difficile, guarda, lo può fare chiunque. Due, quattro veramente, dai, uno so cercato un soggiorno, perché tu giorni 8,50 sono ignorato e io l'antenna è 6,90 una cosa del genere e l'ho lasciata collegata per terra e c'è più di un anno collegata per terra lì, non mi interessa più. Infatti, è cazzo, te lo manco me lo chiamare dal 140 in cui mi avrà anche lì, non l'avevo parata, non ero a Torino, non l'avevo fatta arrivare a Torino, e quando l'antenna mia, lei è veramente in gamba, la struttura è perfetta, i tubi radiali sono da 10 mm, sono, non si rompe, tu vedi tanti di quei piccioni sopra, io tante volte li vedevo, infatti mi davano fastidio, quando ho avuto la tua adesso mi spesso le radiali, invece niente, tutti in piedi, perfetti. Devo dire che è anche lo stile centrale, penso il primo tubo che è alla base, roba di 45, 46, 47 mm di diametro, è grossissimo, va benissimo, però quando c'è il vento, la notte, il vento, a frusciare, questa cosa, caspita, mi dava un fastidio, mi dava, allora per quello che l'ho smontata. Quelle fascette per stringere, perché la canapa è a canocchiare, no? Ho usato quello, quelle fascette che si con la vite lì, ho comprato quello, ho comprato un acciaio inossidabile, questa di una miglia, a livello di nemmeno un di luna, e ci ho messo quelli, perché sono in varie misure, no? Secondo la sezione della canapa, e quelli che ci sono che hanno loro, quindi li ho eliminati. Io. E poi ci ho messo sopra, ci ho messo il nastro isolante, tutto bello nastrato, in modo che le fascette non si arrugginiscono mai, perché sono coperte. Un domani che la voglio smontare, tolgo il nastro isolante, taglio il nastro isolante e dentro ci sono le fascette che sono tra l'altro ripeto in acciaio inossidabile, io non ho messo più uno, si può mettere anche il damierino, non ci sono problemi, però in acciaio inossidabile è migliore perché non arrugginiscono mai, capito? No, allora devi fare il calcolo per, anziché la gola a 3 quarti d'onda, perché così, cioè a 5 ottavi, la puoi fare a mezz'onda, allora devi fare un calcolo matematico, per quello non è un problema, il calcolo matematico si può sempre fare, questo sì, io te lo posso anche spiegare come si fa, ma intanto devi riscrivere, perché quella è una 5 ottavi, come l'ho fatta io, lui va qui 7 mesi e 5 ottavi. La canapa è 7 mesi, poi ci ho aggiunto in punta un altro pezzettino, ci avevo aggiunto io, perché la parte finale della canna da pesca è sottile, dunque il filo, io ho usato un filo da 3 mm, una cosa così, non ci passava, allora l'ho fatto, l'ho tagliata, l'ho tolta con la punta punta e l'ho cambiata, infatti è un po' diversa di colore, ma non me lo frega niente, è sempre di canna da pesca però. È chiaro, non sono più grande, capito? Perché la di un'altra canna da pesca era che l'avevano, me lo sono fatto dare a Gabrizio, il meccanico delle moto, me l'aveva regalato lui, quel pezzo di canna da pesca. E ho inserito quella, in modo che sopra poi ci ho fatto un nodo, in modo che quando è sul filo non scende, non passa nel buco, capito? Nel foro della punta dell'antenna, e se no che ne scende, capito? Ciao, vediamo un po' che c'è Claudio. No, sta facendo 20 giorni, capito? E forse ancora non ho finito. Però già rientrerà, sicuramente più tardi rientra. Io penso che verso le 6 e mezzo dovrebbe rientrare, perché non credo che lavorissi la tardi. E sapete, noi lavori a casa sua, per cui non ho detto quello, è impegnato tutto il giorno, visto che al tempo se lo fa il lavoro, capito? Aspettiamo, e dovrebbe stare anche Marco, lo so. Vabbè, dunque, vai, se devi andare, non c'è un problema, io rimango qua, e ascolto, penso che ho acceso alle 4 oggi, alle 4, mi stavo guardando il tablet, mi stavo guardando un po' la televisione, un po' di tutto, insomma, ecco. E avevo il barattino con le squarce girate, e non lo fanno sentire correre, tutto lì. Vabbè, ci sentiamo eventualmente più tardi, non so se coincide, vai Luca, alle prossime, a domani.